continua la beffa, perché martedì in assemblea legislativa l'assessore Calvano ha detto anche che i piani urbanistici comunali, cioè il periodo di applicazione in regime transitorio, cessa al termine del corrente anno. Ecco, quindi una notizia bomba, cioè nel senso che finalmente, per quanto sia una legge discutibile, ma almeno vediamola la prova, perché in questa benedetta regione, con tutte le proroghe concesse dal Covid in poi, dal 2020 in poi, abbiamo avuto un transitorio che non doveva esserci, a detta di Bonaccini e dell'allora assessore Donini, perché i termini erano perentori. Per la prima volta, secondo loro, avremmo avuto una legge che era perentoria nei termini, nelle scadenze, nell'entrata in vigore. Di fatto abbiamo avuto 6 anni di proroga, in una situazione in cui meno del 20% dei comuni di questa regione si è cimentata con questa legge, redigendo il nuovo piano urbanistico generale. Bene, tutto questo non è accaduto per 6 anni e dovremo ancora aspettare, perché appunto, mentre da una parte in assemblea legislativa Calvano, l'assessore Calvano, diceva queste cose, dall'altra l'apparato tecnico del settore governo e qualità del territorio ha emanato un chiarimento circa gli effetti del decreto legge alluvioni sulle tempistiche indicate dalla legge 24 del 2017 relative ai piani urbanistici attuativi e agli accordi operativi. In sostanza, che cosa significa? Significa che perché soltanto il 20% dei comuni di questa regione ha elaborato, ha avuto il tempo e la possibilità di fare il nuovo piano urbanistico? Perché il restante 80% dei comuni di questa regione, gli uffici tecnici sono stati dedicati in qualche modo ad occuparsi dell'approvare e convenzionare tutte quelle che erano le previsioni urbanistiche, perché questo è quello che gli concedeva quell'articolo capestro che in altre occasioni ho chiamato rubamasso, col combinato disposto dell'articolo 53, che è l'articolo Tana libera tutti. Allora, a questo punto che cosa è successo? Per 6 anni, grazie alle proroghe concesse dalla regione, tutti gli uffici comunali si sono dedicati, si sono occupati ad approvare i precedenti previsioni urbanistiche, perché altrimenti con l'entrata in vigore del nuovo piano urbanistico generale sarebbero decadute tutte le previsioni urbanistiche, tutte le eredità dei precedenti decenni di pianificazione territoriale. Voi sapete che il decreto alluvioni ha sospeso tutte le perentorietà degli atti amministrativi per gli 80 comuni della provincia di Forlì e Cesena, della provincia di Ravenna, di metà della città metropolitana e di metà della provincia di Rimini, cioè per un totale di 80 comuni. Bene, la regione con questo chiarimento tira fuori il coniglio dal cappello e dice: oh, quella norma che valeva per i comuni, per gli 80 comuni, quindi un terzo della regione, nel periodo post-alluvione, sapete cosa facciamo? La utilizziamo anche estendendola per l'entrata in vigore della legge 24, per tutti quelli che sono le attività che sarebbero decadute, secondo Calvano, al 31/12/2023, le proroghiamo fino a maggio del 2024. Non solo, ma dice anche, si specifica che eventuali successivi provvedimenti che ampliassero ad altri comuni la disciplina speciale, automaticamente avrebbe l'effetto di estendere anche a questi l'applicazione. Cioè, arriva un'altra piena, arriva un'altra alluvione nel Piacentino e nel Parmense, con questa applicazione retrodatata verrebbe estesa questo chiarimento sul decreto alluvioni che sospendeva i precedenti iniziativi fino al 31 agosto, li estenderebbe sine die anche per tutti gli altri parti della regione. Cioè, siamo al fantascienza pura. Questo con un atto tecnico, con un chiarimento firmato da un dirigente, Cioè, è una roba veramente vergognosa. Oltre ogni limite, oltre ogni possibile fantasia. Il paradosso è che si utilizza, come dire, il decreto alluvione, quindi una catastrofe naturale comunque che ha come concause il consumo di suolo, per prorogare l'entrata in vigore di una legge contro il consumo di suolo. Sì, siamo alla follia pura. Ma questo poi è la regione che, se fosse il governo che contro una regione che ha fatto una norma nuova, una norma rivoluzionaria, ma una norma che mette i lacci lacciuoli, no, questa è una regione che se le fa e se le canta, non c'è più pudore, non c'è alcun limite.